figlia dell'amore. Schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sole tu puoi, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito. Con un detto